Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17, quasi 8 minuti, nuovo appuntamento con Focus Economia. Oggi cercheremo di essere un po' più positivi e parlare di cose anche un po' più appunto positive che stanno andando più o meno bene, a cominciare dai mercati che negli ultimi minuti di contrattazione, questi sono gli ultimi 20 minuti scarsi per quanto riguarda l'Europa, ha ricominciato a correre, eliminate le perdite, anche Piazza Affari in questo momento è praticamente piatta, l'Europa invece guadagna, Parigi guadagna uno 0,35%, Francoforte lo 0,69%, Londra un po' più indietro guadagna uno 0,14%, il MIBTEL è poco al di sotto della parità, l'S&P MIB è in lieve flessione di uno 0,13%, il Dow Jones guadagna lo 0,29%, il Nasdaq lo 0,08% e questo già ci sembra un buon inizio in un periodo in cui va tutto male e vi raccontiamo solo dati negativi. Oggi parleremo di turismo perché si è aperta a Milano la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, e poi parleremo, ovviamente ampia pagina dedicata ai mercati, parleremo di alcune novità che arrivano dalla Campania, in particolare per Pomigliano d'Arco, la cassa integrazione e l'integrazione al salario decisa dalla Regione Campania, come avete già sentito nel corso del nostro giornale radio, e poi ancora dall'estero chiarezza sul segreto bancario per quanto riguarda la Svizzera e alcune mosse decise un po' obbligatoriamente da UBS, ma cercheremo di capirne di più, e poi andremo in Cina perché anche lì ci sono alcune misure di protezionismo latente, ce le faremo raccontare in modo più particolareggiato dal corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai, Luca Vinciguerra, ma questo nella seconda parte del nostro programma. Adesso le notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio, New York apre a $35,60 al barile, l'incremento è del 2,8%. E ancora torniamo a raccontarvi dell'Euribor, come ogni giorno nuovo minimo storico per il tasso a tre mesi, sceso oggi dall'1,90 all'1,89, il livello più basso dall'introduzione dell'euro. Sempre crisi, il Fondo Monetario Internazionale ha concesso un prestito di 1,68 miliardi di euro alla Lettonia per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito il paese baltico e che vedrà crollare il prodotto interno lordo del 12% nel 2008, secondo le previsioni del Ministero delle Finanze. Parliamo di banche, settore particolarmente colpito da questa crisi economica. BNP Paribas ha accusato nel 2008 un forte calo del suo utile netto, sceso a 3 miliardi dal profitto record di 7,8 miliardi del 2007 a causa della forte perdita registrata dal suo polo investimento e finanziamento nel quarto trimestre. Sempre a causa della crisi, sempre BNP Paribas taglierà nel 2009 1000 posti nel settore investimento. Come vi dicevo, poi ne parleremo più avanti in maniera più approfondita, UBS, la Svizzera UBS ha raggiunto un accordo per risolvere in via extragiudiziale la disputa con le autorità americane, secondo le quali la banca avrebbe aiutato migliaia di ambienti clienti americani a evadere il fisco. In base all'accordo, UBS verserà $780 milioni. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia americano, appunto UBS avrebbe ammesso di aver aiutato alcuni americani a evadere il fisco, e sempre in base a questo accordo UBS fornirà anche l'identità di alcuni degli americani ambienti che appunto ha aiutato a evadere le tasse. Dalla Svizzera ci spostiamo in Germania. L'istituto di credito tedesco IPO Real Estate ha bisogno di nuove garanzie sul debito per circa 20 miliardi di euro, oltre a ulteriori 10 miliardi di euro in nuovi capitali. Questo è quanto scrive oggi il quotidiano tedesco il Frankfurter Allgemeine Zeitung, sottolineando che la banca non è sufficientemente capitalizzata. Ricordiamo, la IPO Real Estate ha già ricevuto un totale di 102 miliardi di euro, tra cui garanzie sul debito e iniezioni di capitali. In merito al sistema bancario, la commissaria europea alla concorrenza Nelly Kroes ha detto: obbligare le banche a rivelare il reale ammontare degli asset tossici in loro possesso. Questo è appunto l'appello della commissaria, l'appello che ha rivolto ai governi e alle autorità di vigilanza del settore bancario, ricordando che la prossima settimana la Commissione europea presenterà alcune linee guida per spiegare come gli Stati membri dovrebbero concepire gli aiuti di Stato per permettere alle banche di liberarsi degli asset tossici, degli asset deteriorati. In merito al sistema bancario ha parlato anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier britannico Gordon Brown, oggi visita appunto del britannico Brown in Italia, e Berlusconi ha parlato anche appunto delle diverse ipotesi sul tavolo per contrastare la crisi economica, tra cui appunto la nazionalizzazione delle banche. Sentiamolo. Adesso stiamo cercando qualche cosa di più forte, che dia una risposta definitiva a tutto questo sistema finanziario, al sistema delle banche, agli investimenti cosiddetti tossici. Ecco, e qui stiamo esercitando un esame per arrivare a una soluzione condivisa. Vi posso dire che ci sono diverse teorie sul tavolo. Una teoria, per esempio, che può sembrare suggestiva e contraria al capitalismo e al libero mercato, è quella della nazionalizzazione delle banche. Ora, è soltanto per ora un'ipotesi avanzata da qualcuno, banche nazionalizzate che potrebbero avere come impegno quello di continuare a fornire credito come prima alle imprese e ai privati, però è ancora qualcosa su cui ci stiamo esercitando. Se fosse così facile non sarebbe così arduo trovare la soluzione. Presidente del Consiglio e il premier britannico Brown nella conferenza stampa congiunta hanno anche concordato con la necessità di non cedere al protezionismo, definito dal presidente del Consiglio una trappola. Per affrontare la crisi, ha detto Berlusconi, è necessario riscrivere le regole. Per quanto riguarda l'Italia, Berlusconi ha ribadito che il nostro paese se la sta cavando e se la caverà. Sono sicuro, ha detto Berlusconi, che il paese uscirà meglio degli altri da questa crisi economica. E ancora, il nostro invito ai cittadini italiani, ha detto Berlusconi, è di non avere paura della crisi economica mondiale. E nell'incontro con Brown, l'incontro è sicuramente si è focalizzato sui temi della crisi finanziaria ed economica, sulle risposte da dare per affrontarla. Su queste, ha detto Berlusconi, c'è totale accordo con il primo ministro britannico Brown. Ovviamente Berlusconi lo ha riferito nel corso della conferenza stampa congiunta. Il G20 del 2 aprile a Londra darà uno slancio all'economia, questo è quanto ha detto Brown invece, sempre nel corso della conferenza stampa, spiegando che è fondamentale avere regole precise e che bisogna mettere in atto flussi economici. Tornando in particolare al nostro paese, tornando ai dati, ai noi negativi, l'interscambio complessivo dell'Italia ha registrato a dicembre un saldo negativo per 411 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al disavanzo di 1.890 milioni di euro dello stesso mese del 2007. Quindi una notizia negativa, ma che contemporaneamente dà anche uno spiraglio, una speranza per il futuro. Questo è quanto comunica l'Istat, aggiungendo che le importazioni sono diminuite del 5,5%, le esportazioni del 10,3%. Sempre in merito ai dati comunicati dall'Istat, nel corso dell'intero 2008 l'interscambio complessivo dell'Italia ha registrato un saldo negativo per 11.474 milioni di euro, più ampio di quello rilevato nel 2007. L'Istat aggiunge che le esportazioni complessive sono comunque cresciute del 2%, le importazioni del 2,5%. Ed ora registriamo la risposta della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, che ieri aveva lanciato pesanti accuse contro l'associazione degli industriali, dicendo che appunto bisogna evitare questi corvi, che bisogna affrontare la crisi con ottimismo e razionalità. Oggi la presidente Marcegaglia ha risposto, la presidente era all'inaugurazione della BIT qui a Milano, ascoltiamola al microfono di Stefano Totoro. Centro studio è un centro studio autorevole che fa previsioni in un momento come questo difficile in linea con gli altri organismi internazionali. Non siamo assolutamente corvi, anzi io personalmente continuo a dire che credo che l'Italia con alcune politiche da portare avanti in questi mesi possa uscire dalla crisi entro fine 2009, quindi il problema vero è cercare di fare tutto quello che è possibile per fare in modo che il Paese reagisca e vada avanti. Voi proponete di lasciare il TFR in azienda per un anno, che cosa vuol dire per le imprese? Vorrebbe dire, parliamo di circa 5 miliardi di euro che potrebbero rimanere in azienda oppure costituire un fondo di garanzia per garantire i crediti soprattutto delle piccole imprese. Allora, come abbiamo detto in apertura, apriamo con la BIT, l'apertura della BIT 2009 questa mattina a Milano. Il tema è globalizzazione e turismo, rischi e opportunità di una sfida senza confini. Possiamo dire comunque che il 2008 per quanto riguarda il turismo è stato sì un anno in flessione, ma meglio del previsto, almeno secondo i dati Istat comunicati ieri. Per quanto riguarda la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, si tratta della 29esima edizione, si svolge appunto presso la Fiera di Milano da oggi fino al 22 febbraio. Ci sono 5.000 espositori in rappresentanza di oltre 150 paesi, sono attesi oltre 150.000 visitatori, ma questo lo potremo poi vedere e chiarire solo alla fine dell'esposizione e della manifestazione. Come avete sentito, la presidente Marcegaglia era proprio lì questa mattina per inaugurare la Borsa Internazionale del Turismo. Sentiamo quanto ha detto proprio a proposito del settore turistico italiano. Anche all'interno di Confindustria il comparto del turismo è molto importante, noi ci teniamo molto, è uno di quei settori in cui pensiamo di poter fare grande crescita e quindi per noi è veramente strategico. Le cose da fare sono un po' quelle che abbiamo detto. La prima, un coordinamento di tutte le politiche promozionali che oggi non c'è, oggi ci sono pochi soldi spesi malissimo e questi non creano quell'effetto volano, invece quell'effetto promozione che sarebbe assolutamente necessario, basta guardare quello che succede negli altri paesi. E su questo noi denunceremo, saremo una voce molto forte nel richiedere che proprio in un momento di crisi come questo non ci siano più situazioni di questo tipo. Il secondo tema è fondamentale che il turismo non sia una cenerentola che rimane lì da sola, ma sia integrato con le grandi politiche che serve del Paese, la politica ambientale, la politica infrastrutturale, la politica industriale, quindi il fatto che ci siano incentivazioni come in altri settori ritenuti strategici è assolutamente importante. Il terzo punto è che anche da parte nostra, come diciamo industria del turismo, dobbiamo capire bene la domanda, guardarla, modificare le nostre strategie, aggregarci, puntare sulla qualità, sulla formazione. Siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Valeria Minghetti, ricercatrice del CISET, il Centro Internazionale di Studi di Economia Turistica. Buon pomeriggio, benvenuta. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, dottoressa, visto che lei si trova proprio in fiera alla BIT, volevo sapere da lei qual è il clima che si respira. Ma il clima è un clima, diciamo, che riguarda un po' tutta l'economia, quindi un clima un po' di incertezza su un anno 2008 che tutto sommato si è chiuso bene, nonostante appunto una seconda parte più difficile rispetto alla prima. E un 2009 che appunto è in uno stato di attesa, quindi gli operatori stanno un po' vedendo come evolverà la situazione. Dottoressa, secondo alcuni dati appunto diffusi dall'Istat nella giornata di ieri, malgrado la crisi, malgrado i mesi difficili che abbiamo avuto alle spalle, senza contare e senza parlare di quelli che abbiamo di fronte a noi, però guardando solo il 2008, sicuramente è stato un anno difficile, ma per il turismo migliore di quelle che erano state almeno una parte delle attese, che prevedevano addirittura un calo del 10%. Così non è stato. No, io direi di no, è stato un anno appunto di luce e ombre, con due fasi sostanzialmente, una prima fase sicuramente molto più positiva, una seconda fase più difficile che però tendenzialmente è stata compensata, quindi anche a livello internazionale i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo comunque danno un segno più di crescita appunto per il 2008. Si tratterà appunto di vedere adesso quale sarà l'evoluzione del 2009. Secondo me è difficile dare dei numeri, perché sarebbe appunto avere a disposizione la sfera di cristallo. Quello che io posso dire è che secondo me c'è comunque un cambiamento del mercato che è nato da alcuni anni e che potrebbe comunque aiutare in questo periodo di crisi. Allora, la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno, altrimenti molti dei nostri problemi in questo momento sarebbero superati e sarebbe tutto molto molto più bello. Comunque sentivamo prima la presidente Marcegaglia dire che bisogna lavorare proprio su una promozione turistica non spezzettata, cercare di lavorare anche sulla qualità e sulla formazione, e a sottolineare l'importanza di questo coordinamento a livello nazionale è stato anche Daniel Winteler, che è il presidente di Federturismo Confindustria, che ascoltiamo sempre al microfono di Stefano Totoro. L'immagine del paese all'estero in particolare si proietta in modo unitario, poi si possono valorizzare le singole offerte, le singole proposte, però chiaramente una somma di messaggi diversi, pur positivi, crea nell'immaginario del turista straniero in particolare perlomeno un minimo di confusione. Questo chiaramente è anche uno spreco di risorse, come si citava più volte durante il corso della mattinata. Però prima di arrivare ancora a un coordinamento unico, che è essenziale, bisognerebbe pensare anche a smontare alcune di queste strutture, perché non è che poi possiamo creare una struttura centrale che si sovrappone a tutte queste strutture locali o regionali. Quindi bisogna avere il coraggio da parte della politica, ma anche da parte delle aziende, di aggregarsi e quindi di uscire con un messaggio unitario, con poche persone che siano un punto di riferimento unico per il Paese, soprattutto in materia promozionale, altrimenti rischiamo di continuare in questa saga di pubblicità negli aeroporti vari, che individuano piccole regioni o piccole località che non hanno poi speranza di veramente attrarre flussi consistenti di turisti. Allora, dottoressa Minghetti, oltre diciamo a questa struttura a livello nazionale, a questo coordinamento a livello nazionale di cui parlava il dottor Winteler, e quindi della necessità di un maggior coordinamento per non procedere in ordine sparso, parlava anche di quello che è il riflesso all'estero dell'immagine, della nostra immagine dal punto di vista turistico. Se ho ben capito, per quanto riguarda ad esempio, prendiamo in considerazione le vacanze di Natale, l'afflusso degli stranieri è calato. Ora, al di là del momento di crisi che vale per tutti in Italia come all'estero, c'è anche proprio un problema di qualità che viene offerta o non viene offerta dalle strutture italiane, di qualità e quindi anche di prezzo. Ma infatti io direi di parlare sempre di rapporto qualità-prezzo, no? Nel senso di riuscire ad avere un servizio che risponda alle proprie esigenze in funzione anche del prezzo che si è pagato. Io penso che questa sia una cosa importante, lo sarà ancora di più nel 2009, nel senso che se ci sarà chi magari rinuncerà alle vacanze, ci sarà un'altra fetta del mercato, soprattutto i turisti di fascia alta, che continueranno a viaggiare, ma probabilmente chiederanno ancora di più che questo rapporto qualità-prezzo sia rispettato, quindi di avere un servizio di livello e quindi una soddisfazione rispetto a quello che hanno pagato. E lì probabilmente si giocherà la capacità di rimanere competitivi. Io penso che questa possa essere un po' la parola d'ordine del 2009, riuscire a rimanere competitivi, riuscire a mantenere da parte degli operatori le posizioni guadagnate sul mercato. Ecco, dottoressa, visto che già alcune delle associazioni dei consumatori proprio negli ultimi giorni hanno lamentato i prezzi decisamente, li hanno definiti decisamente eccessivi rispetto alla concorrenza straniera delle strutture italiane, dal vostro punto di osservazione, che è comunque un osservatorio molto particolare e molto attento. Avete notato dei miglioramenti nel corso? Perché non è la prima volta che parliamo di un problema di qualità-prezzo per le strutture ricettive italiane. Avete notato dei miglioramenti nel corso degli ultimi mesi? Ma io devo dire che negli ultimi anni si è verificato anche un'altra cosa, cioè nel senso che molte volte non era un discorso solo di strutture ricettive, ma anche di costo a destinazione, mi spiego meglio. Nel momento in cui il turista decideva di fare una vacanza, il problema era di valutare il costo complessivo, quindi quanto veniva a spendere a destinazione al di là, diciamo, della struttura ricettiva. Quindi io allargherei anche il discorso proprio a livello di destinazione, quindi di costo di altri servizi che vengono acquistati nel momento in cui un turista, che sia italiano o straniero, decide di fare una vacanza in Italia come in altre destinazioni. E a proposito dei prezzi, di questo ha parlato anche Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi Confturismo, che al microfono di Stefano Totoro è tornato a lanciare una richiesta di aiuto per il settore. Sentiamolo. Calo della domanda turistica, un grosso crollo di presenze soprattutto dagli Stati Uniti e dal Giappone, anche il mercato interno langue, sicuramente a fronte di un calo dei ricavi per il sistema turistico italiano. È difficile tenere alto il sistema dei costi. Siamo quindi preoccupati per i posti di lavoro, il turismo occupa più di 1 milione di posti di occupati. Noi chiediamo un aiuto, come hanno ottenuto altri settori, per mantenere i livelli occupazionali all'interno delle nostre strutture. Noi stiamo abbassando le tariffe, rispetto all'anno scorso le tariffe alberghiere italiane sono scese tra il 15 e il 20%. Io credo che gli imprenditori abbiano fatto la loro parte, adesso però spetta anche agli altri. E allora abbiamo sentito Bernabò Bocca dire che appunto le tariffe sono scese tra il 15 e il 20% da parte degli albergatori. Risulta a voi, dottoressa Minghetti? Abbiamo un osservatorio, diciamo, da questo punto di vista, quindi io non le saprei dare una risposta corretta, ecco. Sicuramente appunto c'è un problema adesso da parte delle imprese di, a fronte di un mercato in crisi, riuscire a... Io direi più che tagliare i prezzi, diciamo sviluppare una politica di prezzi dinamica e flessibile. Quindi certo. Questo richiede professionalità, questo richiede attenzione al mercato, questo richiede capacità di gestire i propri dati. Ero adesso a un forum appunto sulla distribuzione turistica qui in BIT, si parlava proprio di questo, capacità degli operatori di leggere i propri dati e di conoscere le caratteristiche del cliente e andare a catturare il cliente giusto. Ecco, io direi una politica dinamica e flessibile, sapere modulare i prezzi in funzione delle richieste. Ovviamente poi c'è tutto il discorso, come ha detto anche il dottor Bocca, dei costi, quindi a fronte anche di una razionalizzazione ovviamente dei costi. Io diciamo spererei che questo non si riversasse solo in un taglio, diciamo, dell'occupazione, soprattutto delle professionalità che alcune aziende hanno acquisito nel tempo, perché le professionalità sono il capitale umano e fondamentale soprattutto nei periodi di crisi poi per ripartire. Certo, lei parlava di una politica dinamica e flessibile, e il turista è già diventato un po' più dinamico e flessibile, visto che per la prima volta le vacanze brevi hanno superato quelle lunghe nel 2008, una tendenza che però c'è già da qualche anno. Sì, infatti era un po' quello che le dicevo all'inizio, cioè io penso che una speranza in questa crisi, un ottimismo in questa crisi venga proprio da un cambiamento del mercato. Sembra una frase, diciamo, ormai banale, però effettivamente la vacanza comincia a essere un bene irrinunciabile, quindi diciamo che a fronte di quadri foschi in cui si dice che appunto caleranno drasticamente le persone che fanno vacanza, io direi sì, ci sarà sicuramente un calo, ma secondo me ci sarà più una modificazione del comportamento, quindi magari non si rinuncia alla vacanza ma si scelgono delle formule che consentono di risparmiare, quindi magari accorcio la durata del mio soggiorno, scelgo delle modalità di alloggio diverse, scelgo delle modalità di trasporto diverse, e quindi magari faccio anche un giorno di vacanza ma lo faccio, ecco. Quindi questo vuol dire anche una flessibilità nel senso di usare canali diversi attraverso per esempio acquistare i prodotti e quindi i servizi. Certo, lei parlava di bene irrinunciabile, anche se a noi fa un po' effetto parlare di vacanza come bene irrinunciabile in un momento così difficile. Sappiamo che per alcuni può suonare un po' strano alle orecchie, certo, per non dire altro, però è ovvio che cerchiamo anche di vedere il lato, come dire, il lato positivo, visto che il turismo da solo vale l'11% del PIL italiano e anzi forse vale anche un po' poco per essere un paese come il nostro, insomma, che avrebbe molto da offrire, forse molto altro da offrire. Beh, comunque il turismo è un settore economico importante, lo è in Italia, lo è in altri paesi e speriamo appunto che da questa crisi comunque ne esca rafforzato. In genere dicono che le crisi, anche dal punto di vista economico in senso generale, poi portano certo. a delle innovazioni, portano a delle razionalizzazioni. Servono a rigenerare. Certo, ecco, quindi speriamo. Speriamo che sia un ottimo stimolo da questo punto di vista, che poi si possa ripartire ancora meglio. Insomma. Grazie alla dottoressa Valeria Minghetti, ricercatrice del CISET, per essere stata con noi. A lei buon lavoro. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Prima di concludere in via definitiva la nostra parentesi dedicata al turismo, non posso non dirvi che anche quest'anno è Roma la città preferita dagli italiani. La capitale è infatti vincitrice del Beat Tourism Award 2009 nella categoria città italiana e io che sono romana non potevo esimermi dal dirvi questa cosa. Seconda cosa, ci scrive al 349-238-6666 il signor Nando, che mi bacchetta e dice che io uso troppo la parola crisi. Signor Nando, faccio ammenda, cercherò di dirlo di meno e di usare altri termini. Adesso noi ci spostiamo sui mercati. Buonasera ad Andrea Fontana, collega di Radiocor, benvenuto. Buonasera Valeria. Allora, io in apertura mi ero addirittura spinta a dire che le piazze europee stavano cercando di rimontare per chiudere tutte con il segno più, e invece questo purtroppo non è accaduto, non per tutte almeno, qualche scivolone nel finale. Piazza Affari chiude in questo modo, il MIBDA meno 0,36%, l'S&P MIB meno 0,48%, però a Piazza Affari miglior titolo Parmalat. Andrea, c'è qualche problema sulla linea, credo. Pronto? Eccoci, sì. Scusate. Sentivamo qualche rumore di fondo, appunto dicevo, il miglior titolo comunque è Parmalat, che guadagna quasi 5 punti percentuali. Sì, un'ottima performance per Parmalat. Ieri è arrivata la notizia della firma dell'ennesimo accordo transattivo con il Banco Popolare, questa volta per circa 25 milioni di euro, accordo che pone fine alle richieste di Parmalat e alle pretese avanzate dalla Parmalat dopo il crack appunto del gruppo alimentare verso le banche. Questo accordo ha dato spinta al titolo, per la verità una spinta che ha interessato anche tutto il settore alimentare, che è stato oggi il migliore sulle piazze europee ed è stato guidato in maniera particolare da Nestlé, il gruppo svizzero, che ha registrato un'ottima performance salendo di oltre il 6% a Zurigo grazie ai conti sul 2008 e alle prospettive sul 2009. Andrea, per quanto riguarda il capitolo Alleanza Generali, c'è stato un rimbalzo rispetto ai giorni scorsi, anche se poi Generali è riuscita a chiudere con il segno più, Alleanza invece ha ceduto nel finale lo 0,65%. Sì, un rimbalzo in controtendenza rispetto all'andamento del settore assicurativo, che oggi ha sofferto in particolare i conti del colosso francese AXA, che ha chiuso il 2008 con un utile netto in calo di oltre l'80% e ne ha risentito naturalmente anche sul listino francese. Invece, come tu ricordavi, diciamo così, l'andamento negativo dei giorni scorsi legato alla conferma delle indiscrezioni in merito a un progetto di fusione tra Generali e Alleanza, che è già controllata dall'Istituto di Trieste, avevano un po' depresso entrambi i titoli, soprattutto Alleanza, nel momento in cui ci si è reso conto che Generali non avrebbe lanciato un'offerta pubblica d'acquisto sul titolo per toglierlo dal listino. Oggi c'è stato un piccolo recupero che ha premiato in maniera particolare Generali ed è stato sicuramente il più brillante dei finanziari, laddove invece molti titoli bancari e assicurativi hanno pagato sul SPMIB. Andrea, tengono i petroliferi con il recupero del greggio, il miglior titolo tra questi è quello di Saipem. Sì, Saipem ha guadagnato oltre l'1%, c'è stata oggi una raccomandazione positiva da parte di Citigroup, va detto anche che i concorrenti francesi di Technip hanno presentato conti positivi sopra le attese e questo ha permesso al titolo di guidare un po' il comparto, anche se si è ben comportata anche Tenaris più 0,6% e Eni, che ha tenuto sostanzialmente, è rimasto sostanzialmente a galla chiudendo con un frazionario rialzo più 0,06%. Comunque il settore oggi non si è comportato male, così come anche quello dell'energia e Enel, Terna hanno viaggiato in controtendenza rispetto all'andamento dell'SPMIB. Periodo piuttosto travagliato per Seat, per un po' di tempo durante questa giornata è stato anche il peggior titolo, chiude così in terz'ultima posizione, mettiamola in questo modo, con una flessione del 5,5%. Per quanto riguarda Seat, i momenti difficili non sono certo passati, oggi vengono sottolineati anche da uno studio da parte di Deutsche Bank, che ha ridotto le stime sui risultati dal 2009 al 2011 del gruppo appunto che edita le pagine gialle, gruppo che domani è atteso alla presentazione del piano industriale e certamente insomma il mercato si è mosso con molta cautela su questo titolo prima di vedere prospettive di rialzo, probabilmente le indicazioni di domani saranno decisive da questo punto di vista. Andrea, una giornata molto particolare per Mediaset. Nella prima parte della seduta è stato quasi sempre un peggior titolo, insomma perdeva parecchio. Poi in chiusura ha un po' recuperato, alla fine della giornata la flessione è stata dell'1,38%. Sì, si è allontanata molto dai minimi nell'ultima parte del pomeriggio, come tu ricordavi, una Mediaset depressa questa mattina dai conti sia del gruppo francese TF1 sia da parte del gruppo spagnolo Antena 3 che appunto hanno presentato entrambi conti piuttosto negativi, peggiori delle attese del mercato, e questo ha fatto sì che Mediaset fosse per gran parte della seduta il titolo peggiore e poi invece si è un po' risollevato, anche se questa mattina ha toccato un minimo a 3,375. Per quanto riguarda Fiat, anche qui ieri era stata una buona giornata, meglio delle controparti americane, oggi invece tra i peggiori, quart'ultima, meno 4,06%. Sì, e poi una chiusura soprattutto sotto i 4 euro, che è una soglia psicologica importante per quanto riguarda Fiat. Questo conferma ancora una volta come sul settore auto il mercato stia ancora assolutamente navigando a vista, un settore auto che oggi è stato, diciamo così, guardando l'indice generale europeo, è stato piuttosto stabile, quindi titoli contrastati, ma dove la singola storia sembra a questo punto contare poco. È un discorso di settore, quindi ci sono un po' ricoperture tecniche o vendite immediate, quindi possiamo dire questo, un settore fortemente volatile dal punto di vista borsistico, borsistico e debole dal punto di vista delle prospettive industriali fa sì che gli operatori non esitino a chiudere le posizioni, a prendere beneficio immediatamente dopo anche giornate di singole rialzo, di singole giornate di rialzo come quelle che abbiamo visto ieri. E ripartiamo proprio dai mercati. Andrea, non posso evitare di farti una domanda su Unicredit. Peggior titolo oggi, meno 6,39, scivola ancora sotto un euro per azione. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. Dove può scendere ancora? Chi lo sa? Anche qui, se avessimo la sfera di cristallo, forse potremmo saperlo. Andrea, cosa dire ancora di Unicredit? È difficile trovare argomenti per i ribassi tutti i giorni. Certamente il comparto sotto pressione e Unicredit lo è sicuramente più degli altri titoli degli istituti bancari. Oggi i giornali e le agenzie sottolineiamo come Unicredit fosse ormai ai minimi degli ultimi 10 anni e anche di più negli ultimi giorni, la preoccupazione arriva dall'est Europa. Molti hanno sottolineato come l'esposizione della banca verso paesi ormai caratterizzati da un crollo della produzione industriale e appunto dall'allargamento dei deficit delle banche commerciali vadano a pesare proprio sui conti di Unicredit, sulle posizioni di Unicredit che nell'est Europa è particolarmente esposta. E in generale diciamo che il titolo che oggi ha chiuso sotto un euro è stato penalizzato nell'ultima parte della seduta da una preoccupazione che è emersa dopo che il Premier Silvio Berlusconi ha parlato come ipotesi, per la verità, quindi come uno scenario certamente non ancora concreto, quindi di un'ipotesi di nazionalizzazione per qualche istituto italiano. Se da una parte l'ipotesi dell'intervento dello Stato potrebbe dare sostegno a rassicurare gli investitori su questo titolo, lo scenario aperto dal Premier certamente non è dei più rassicuranti per quanto riguarda la situazione attuale degli istituti. Certo, diciamo che è un po' preoccupato, anche se poi dobbiamo dire che Berlusconi ha anche puntualizzato dicendo il sistema bancario italiano è solido e nonostante siano state messe a disposizione somme rilevanti, finora nessuna richiesta è arrivata in questa direzione da parte degli istituti di credito italiani. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie ad Andrea Fontana, collega di Radiocor, per averci illuminato sulla giornata di borsa, a lui buon lavoro. E noi invece lasciamo i mercati, ci spostiamo in Campania e anche qui vi vogliamo raccontare una, tra virgolette, buona notizia, anche se si innesta in un tessuto provato, duramente provato, si innesta su una situazione di cassa integrazione, ma ci facciamo spiegare tutto dal collega Paolo Picone. Buonasera, anzi buon pomeriggio e benvenuto. Grazie altrettanto. Allora, dicevi bene, una buona notizia fra virgolette, perché in realtà la situazione qui, come ben sapete, è particolarmente difficile e drammatica. In realtà in queste ore si sta studiando tra regione, sindacati confederali e Confindustria uno strumento per poter avviare dei corsi di formazione per i 5.000 addetti dello stabilimento Fiat Auto di Pomignano d'Arco in cassa integrazione attualmente, che rientreranno giusto per una breve pausa lavorativa dal 9 al 15 marzo per poi riandare in cassa integrazione dal 16 marzo fino a tutto il 20 aprile, e anche per i 5.000 lavoratori dell'indotto auto regionale. In realtà la regione qualche giorno fa ha messo a disposizione della crisi auto in Campania 20 milioni di euro, ovvero circa 200 euro a testa per ciascun lavoratore per 10 mesi, che dovrà integrare il salario dato per la cassa integrazione. Per la cassa integrazione, certo. Che è pari a 760 euro, in questo modo si potrà coprire circa l'80% del salario. Per dare questi soldi ai lavoratori in cassa integrazione, lo strumento è quindi quello del comitato bilaterale che organizzerà dei corsi di formazione. Questi corsi di formazione dovranno durare per tutto il periodo della cassa integrazione. Volevo, per concludere, dare un dato che secondo me è emblematico di quello che sta accadendo in questo momento qui in Campania, Pomigliano d'Arco in particolare. Nel 2008, fra i due mesi di ristrutturazione del piano Marchionne dello stabilimento e la cassa integrazione, i lavoratori hanno in realtà sono stati al lavoro in una media di 2 settimane al mese, hanno lavorato circa 6 mesi in un anno. Nel 2009 è drammaticamente scesa questa media. Ad oggi stanno lavorando una sola settimana al mese e chissà cosa accadrà in futuro. Grazie a Paolo Picone in collegamento con noi da Napoli. Noi ovviamente l'abbiamo detto prima, è una buona notizia tra virgolette, perché ovviamente una sola settimana di lavoro per ogni mese è davvero poco. Però all'interno sempre di questo argomento oggi dobbiamo riportarvi che il sottosegretario al welfare Pasquale Viespoli ha firmato il decreto per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli ammortizzatori sociali in via provvisoria, in attesa della piena attuazione di quell'accordo trovato tra governo e regioni, trovato poche settimane fa. L'ammontare delle risorse assegnate è pari a 151 milioni di euro. Anna Marino ha raggiunto il sottosegretario Viespoli, che parla di primo intervento concreto che rende efficace l'accordo. Sentiamo. La buona notizia è questa: si tratta di un decreto che distribuisce alle varie regioni, a seconda della dimensione delle regioni, una sorta di importo forfettario per un totale di 151 milioni di euro, al fine di evitare interruzioni e quindi garantire la continuità dei sostegni e delle integrazioni salariali nelle more della definizione degli accordi con le regioni, di appunto consentire alle regioni stesse di avere un primo budget capace di traghettare in maniera serena, in maniera tranquilla, le varie situazioni in attesa della definizione degli accordi e poi successivamente, come si è verificato, in attesa della possibilità di attuare l'accordo Stato-Regioni che si è definito recentemente. Quali regioni riguarda questo accordo? Riguarda tutte le regioni. Quindi non soltanto quelle regioni e province autonome. Sì, riguarda la distribuzione complessiva dei 151 milioni che parte dall'Abruzzo e finisce alla provincia di Trento. Sono 10 milioni per l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, il Veneto e l'Emilia Romagna. 4 milioni per la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Molise e l'Umbria. 500.000 euro per la Valle d'Aosta, la provincia di Bolzano e la provincia di Trento, per un totale appunto di 151,5 milioni di euro, che servono esattamente a dare risposte a quelle situazioni che da gennaio a marzo erano rimaste sostanzialmente prive di risorse. E dell'altro giorno l'accordo appunto tra governo e regioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, e adesso è necessaria l'attuazione. Secondo lei è possibile una previsione di tempi? Ma innanzitutto noi abbiamo garantito che questo possa avvenire, no, senza determinare tensioni, senza determinare problemi, appunto garantendo la continuità dei sostegni al reddito. Io credo che l'accordo abbia bisogno del tempo necessario, è difficile fare delle previsioni precise, ma sicuramente si tratta di una concretizzazione che può avvenire a breve. Questa somma permette di respirare alle regioni per lungo tempo? No, non per lungo tempo, magari servisse a far respirare per lungo tempo, vorrebbe dire che ci troviamo di fronte ad una crisi che non morde come invece purtroppo potrebbe accadere. .08, seconda parte di Focus Economia. Oggi abbiamo fatto il possibile per raccontare qualcosa di positivo, qualche dato negativo quella c'è, purtroppo una flessione in chiusura del MIBDAL e dell'S&P MIB. La piazza milanese è stata tra le peggiori, anzi la peggiore in Europa. Quest'oggi, in questo momento, anche il Dow Jones cede uno 0,82%, il Nasdaq lo 0,92%, e noi cominciamo proprio dagli Stati Uniti. vogliamo ancora riparlare del piano di Obama per la casa, con un appello alle responsabilità collettive e a tutti gli americani perché smettano di vivere al di sopra dei propri mezzi, il presidente statunitense ha annunciato ieri a Phoenix, in Arizona, il suo piano di soccorso a milioni di famiglie che rischiano di perdere la casa. 75 miliardi di dollari per aiutare circa 9 milioni di famiglie in difficoltà nell'onorare gli impegni mensili con i mutui. Quattro i punti che compongono il piano, come ha spiegato lo stesso Obama nella conferenza stampa di presentazione delle misure. I'm here today to talk about a crisis unlike we've ever known. Sono qui oggi per parlare di una crisi senza precedenti. Il piano che sto annunciando pone l'attenzione sul salvataggio delle famiglie che si trovano in difficoltà. Ma voglio essere chiaro su un punto, su ciò che questo piano non farà. Non salverà gente senza scrupoli o irresponsabile, sprecando il denaro dei contribuenti. Non aiuterà gli speculatori. Le istituzioni che vogliono ricevere un'assistenza finanziaria da parte del governo e quindi dai contribuenti e che vogliono modificare le condizioni nell'erogare un mutuo devono seguire le linee guida di questo piano. Le linee guida saranno operative tra 2 settimane. Questo piano consentirà a milioni di famiglie con un mutuo e con rate molto alte di ridefinirlo e il costo stimato per il contribuente sarà zero. Le linee guida del piano sono 4. La prima, renderemo possibile per 4-5 milioni di famiglie in difficoltà che hanno il mutuo con Fannie Mae o Freddie Mac di rifinanziarlo a condizioni migliori. Il secondo punto del piano prevede incentivi sia per coloro che prestano e modificano i mutui, sia per i mutuatari puntuali. La terza parte del piano prevede che vengano tenute basse le rate dei mutui per milioni di famiglie della classe media. Quarto punto, cercheremo di portare a termine una serie di riforme per aiutare le famiglie a rimanere nelle loro abitazioni. We will pursue a wide range of reforms designed to help families stay in their homes. Chi ci ha chiesto al 349-238-6666 se questo piano poi concretamente prevede qualcosa come circa $8 a settimana per famiglia, noi non possiamo che rispondere che attualmente non lo sappiamo, ipotizziamo che non sia esattamente così, comunque staremo a vedere poi nei prossimi giorni come e quali saranno più nello specifico i criteri per distribuire, per aiutare le famiglie in evidente difficoltà. Sempre per il grande capitolo crisi, il Fondo Monetario Internazionale ha concesso un prestito di 1,68 miliardi di euro alla Lettonia per far fronte al difficile momento economico che ha colpito il paese baltico, che vedrà crollare il prodotto interno lordo del 12% nel 2008. Queste sono le previsioni del Ministero delle Finanze. Banche, settore bancario. BNP Paribas ha accusato nel 2008 un forte calo del suo utile netto, sceso a 3 miliardi dal profitto record di quasi 8 miliardi del 2007. Questo a causa della forte perdita registrata dal polo investimento e finanziamento nel quarto trimestre. Proprio per questo nel 2009 BNP Paribas taglierà 1000 posti nel settore investimento. Problemi grossi anche in Germania. L'istituto di credito tedesco IPO Real Estate ha bisogno di nuove garanzie sul debito per circa 20 miliardi di euro, oltre a ulteriori 10 miliardi di euro di nuovi capitali. Questo è quanto scrive oggi il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, sottolineando che la banca non è sufficientemente capitalizzata. Per quanto riguarda le parole di Berlusconi pronunciate poco fa nel corso della conferenza stampa con il premier britannico Gordon Brown, Berlusconi ha detto: il sistema bancario italiano è solido e nonostante siano state messe a disposizione somme rilevanti, finora nessuna richiesta è arrivata in questa direzione da parte degli istituti di credito. Poco prima Berlusconi aveva parlato di un'idea di nazionalizzazione. Tra le diverse ipotesi sul tavolo per contrastare la crisi economica c'è anche quella di nazionalizzazione delle banche, idea venuta fuori a livello europeo. Infatti subito dopo Berlusconi ha ulteriormente precisato: si tratta di un'ipotesi, certamente non riguarda le banche italiane. Questo sono appunto le parole di Berlusconi. È intervenuto sull'idea della nazionalizzazione anche Pierluigi Bersani: non si può passare da tutto a niente, ci vuole maggiore concretezza, così Pierluigi Bersani ha replicato e ha commentato l'ipotesi avanzata dal premier di procedere alla nazionalizzazione delle banche. E noi continuiamo a parlare di banche perché, come dicevamo in apertura di programma, alcune notizie arrivano anche dalla Svizzera. Stamattina le notizie arrivate proprio dalla Svizzera ci avevano un po' colto di sorpresa perché UBS ha raggiunto un accordo per risolvere in via extragiudiziale una disputa con le autorità americane, e all'interno di questa disputa, di questo accordo, ci sarebbe anche la possibilità di fornire l'identità di alcuni dei propri clienti. Noi ci facciamo spiegare meglio di che cosa si tratta da Lino Terlizzi, corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Lino. Buonasera, buonasera. E allora, c'è una piccola crepa in questo segreto bancario svizzero, o è stato solo un momento, un attimo, e poi puntualizzato appunto anche dal governo svizzero? Ma diciamo che oggettivamente il segreto bancario svizzero è sotto attacco, e quello che è accaduto con questo accordo che ha coinvolto i clienti americani di UBS è una procedura sostanzialmente non ordinaria. L'impressione prevalente in Svizzera è che alla fine, comunque, trattandosi di frode fiscale e non solo di evasione fiscale, le due cose sono differenti nell'ordinamento svizzero. La seconda, cioè l'evasione, non è perseguibile penalmente in Svizzera ma solo per via amministrativa, e quindi non si presta facilmente ad assistenza o giudiziaria o amministrativa. Ebbene, trattandosi di frode fiscale, alla fine comunque il segreto bancario in una certa misura avrebbe dovuto cadere su questi casi specifici, però lo strappo è avvenuto perché gli Stati Uniti non hanno voluto assolutamente attendere il fatto che su questo si pronunciassero le autorità elvetiche, hanno voluto e ottenuto che si facesse un accordo straordinario con l'UBS direttamente, con la banca coinvolta, con i suoi clienti americani. E questo naturalmente cambia un po' il quadro, perché vuol dire che con questo tipo di rapporti di forza e con questo tipo di iniziativa stringente da parte degli Stati Uniti, le procedure legate al segreto bancario non sono le stesse di prima. Ora naturalmente le banche svizzere, l'UBS in particolare, dicono si è trattato di un caso straordinario, il segreto bancario rimane, lo dice anche il governo elvetico, ma naturalmente questa procedura avrà un peso. È sicuramente un primo passo, è una breccia, insomma. Potrebbe essere una breccia per quel che riguarda il segreto bancario così come è stato vissuto sin qui, ancorché bisogna dire il segreto bancario svizzero, come quello di altre piazze finanziarie importanti, è stato emendato nel corso del tempo. Non è un segreto bancario assoluto, assolutamente, se mi perdonate il bisticcio, ma diciamo è già stato cambiato nel corso del tempo. Ora la Svizzera vorrebbe attestarsi sul segreto bancario che ha adesso. Naturalmente se questo accordo straordinario con le autorità americane diventasse una nuova procedura, ebbene cambierebbe ancora il segreto bancario e ci sarebbe in questo senso una breccia. Grazie, grazie a Lino Terlizzi, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera. Ultima parte, davvero ultima parte di Focus Economia, e purtroppo la cominciamo con il dato relativo al commercio estero, un dato insomma non proprio buonissimo. L'interscambio complessivo dell'Italia ha registrato a dicembre un saldo negativo per 411 milioni di euro, però in significativo miglioramento rispetto al disavanzo di quasi 2.000 milioni di euro dello stesso mese del 2007, per l'esattezza 1.890 milioni di euro. Questo ha comunicato l'Istat, aggiungendo che le importazioni sono diminuite del 5,5%, le esportazioni del 10,3%. Nel corso dell'intero 2008 l'interscambio complessivo dell'Italia ha registrato un saldo negativo per 11.474 milioni di euro, più ampio di quello del 2007, che era poco al di sotto. Questo è quanto ha comunicato l'Istat. Noi restiamo in tema di mercati esteri, parlando di chi ogni giorno se lo va a cercare il proprio successo sul mercato italiano e soprattutto all'estero. Poco fa abbiamo raggiunto Maurizio Bazzo, che è fondatore e presidente di Inglass, un'azienda trevigiana leader in superfici in policarbonato, più volgarmente possiamo parlare dei fari delle automobili. Sentiamo la sua storia. Noi siamo partiti 20 anni fa all'incirca. La svolta è stata nel momento in cui abbiamo deciso di focalizzarci su una nicchia di mercato nel settore auto e all'interno del settore auto in una nicchia mercato rappresentata dalla costruzione di attrezzature per l'esecuzione di stampi per l'illuminazione dell'auto, praticamente quei pezzi che sono multicolore, i fanali o proiettori, ed è stata una scelta che ci ha portati a essere leader mondiali di questo settore. qual è, secondo lei, la mossa vincente della sua azienda? Nel senso che ci sarà qualcosa che vi distingue dagli altri, oltre alla scelta di aver puntato su un settore di nicchia e che vi permette anche in un momento di crisi come questo di distinguervi? Non c'è una mossa predeterminata che ti fa essere qui, ci sono una serie di mosse, di conseguenze, una fra tutte è il fatto di essere globali. Il settore auto è un settore globale e quindi impone di essere dove c'è l'auto, ci deve essere, per cui questa è stata sicuramente una delle mosse vincenti. L'altra è quella, è stata quella di offrire costantemente dei prodotti all'avanguardia in maniera tale da attirare l'attenzione dei nostri clienti. Quindi in qualche modo la ricerca è un po' il vostro punto di forza? Assolutamente è il nostro punto di forza, tanto è vero che noi investiamo buona parte dei nostri margini proprio nella ricerca ed è quello che ci fa oggi sperare bene anche in un momento in cui il settore è in crisi. Voi siete presenti in moltissimi paesi e tra poco rafforzerete anche la vostra presenza in Cina. Sì, la Cina è il mercato attualmente più in sviluppo ed è il motivo per cui abbiamo scelto di andare in Cina, non tanto per produrre in Cina ed esportare all'estero, che non è quello che non ci interessa oggi, quanto per produrre in Cina, per servire lì, nel migliore dei modi, il mercato. Diciamo che per essere all'interno del settore bisogna per forza esserci in Cina, se non ci sei in Cina sei un po' tagliato fuori, perché tutti i componentisti, i costruttori di componentistica auto sono anche in Cina, o ci sei lì o non ci sei neanche in Europa o in America, quindi è una scelta del mercato che il mercato ha imposto. E quindi o ci sei in Cina o sei fuori dal mercato. Proprio dalla Cina però arrivano notizie di piccoli rigurgiti qua e là di protezionismo. Ci colleghiamo con Shanghai, con il corrispondente del Sole 24 Ore, Luca Vinciguerra. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Anzi, per te praticamente quasi buonanotte. Più o meno, sono le 10 di sera. Allora, Luca, oggi sul Sole 24 Ore appunto qualche nota, così se vogliamo, di protezionismo che arriva anche dalla Cina, non proprio un buy Chinese ma quantomeno un buy local. Sì, oserei dire qualcosa anche di peggio, nel senso che dopo aver fatto un grande chiasso nei giorni scorsi in tutti i mezzi di informazione cinesi contro la campagna Buy American lanciata dall'amministrazione Obama, qualche giorno fa, in sordina, alcune province cinesi hanno varato un piano di protezionismo locale. In particolare, diciamo, l'iniziativa più clamorosa di questo tipo è quella annunciata dalla Hanwei. Hanwei è una provincia che sta a ridosso del Jiangsu e di Shanghai, da sempre appunto è una provincia che fornisce lavoratori a basso costo alle industrie shanghainesi. Ha varato delle disposizioni, delle misure con le quali da partire dal mese di marzo tutte le aziende meccaniche, elettromeccaniche e anche le aziende di costruzione della provincia dovranno comprare l'acciaio prodotto da Manshan Steel, grosso produttore di acciaio, uno dei più grossi produttori di acciaio cinesi che risiede giusto appunto nell'Anhui. Queste misure poi dai mesi da aprile e da maggio diventeranno ancora più severe, nel senso che altri settori merceologici e in particolare l'automobile saranno favoriti da questa politica protezionistica. All'iniziativa dell'Anhui si sono accodate altre province cinesi e anche qui direi che il minimo comune denominatore di queste misure protezionistiche sono la difesa dei due settori che insieme al tessile sono stati più colpiti dalla recente crisi dell'economia mondiale, ovvero sia l'automobile e la siderurgia. Questo riguarda un po' le province più povere, più in difficoltà. Secondo te è possibile che poi questo tipo di provvedimento, questi tipi di provvedimento, di provvedimenti possano essere estesi anche ad altre province e magari su tutto il territorio? No, io tenderei ad escluderlo per la semplice ragione che in Cina il protezionismo provinciale, che era una vecchia abitudine delle province cinesi, è di fatto fuori legge ormai dal 2001, quando ci furono dei casi talmente clamorosi e imbarazzanti che costrinsero il governo di Pechino a dire basta al protezionismo provinciale. Come dicevi tu, appunto, le province che hanno varato queste misure sono province povere, sono province che hanno problemi di sovracapacità, province le cui sorti economiche dipendono in modo sostanziale, insomma, da questi grossi settori, queste grosse industrie pesanti come l'automobile e la siderurgia, che negli ultimi anni sono cresciuti anche in modo ipertrofico proprio per sulla, diciamo, sullo slancio della crescita cinese e della domanda internazionale di Made in China, e che oggi praticamente si ritrovano lunghi di scorte, certo. E quindi devono buttare fuori, devono buttare fuori il prodotto e soprattutto devono sostenere l'occupazione. Ecco, tenderei a escludere che di vedere, non so, tra la settimana prossima o il mese prossimo una provincia, non so, come il Guangdong o come il Jiangsu o come lo Shandong varare iniziative di questo tipo. Di questo tipo. No, in quel caso diventerebbe una cosa, cioè, il protezionismo locale avrebbe un impatto internazionale, non solo nazionale, insomma. Quindi. Certo, comunque sta di fatto che tira una brutta aria anche da quelle parti. Luca, alla vigilia della visita di Hillary Clinton si respira anche una brutta aria in questo strano matrimonio, in questa strana relazione tra Stati Uniti e Cina? Ma diciamo che è una situazione un po' strana, nel senso che tutti i cinesi, il governo ma anche il cinese della strada, sicuramente hanno simpatizzato per Obama quando Obama ha corso per diventare presidente degli Stati Uniti, hanno salutato tutti, diciamo, con gioia, con felicità il fatto che Obama avesse vinto. Adesso paradossalmente questa amministrazione Obama, questa amministrazione democratica, sta riportando all'attenzione del dibattito politico interno americano tutta una serie di problemi che riguardano la Cina e il rapporto, soprattutto il rapporto economico con la Cina, e quindi tutta una serie di cose che sotto polso erano state un po' accantonate, vedi quella per esempio sul valore del renminbi, no? Della valuta cinese, sì. O le tensioni protezionistiche adesso sono ritornate prepotentemente alla ribalta, ecco. Certamente per come si stanno mettendo le cose a livello globale, indipendentemente da quale amministrazione ci sia negli Stati Uniti, l'ipotesi di uno scontro protezionistico tra le due superpotenze è uno scenario, insomma, abbastanza probabile, ecco. Grazie a Luca Vinciguerra, corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai. A lui una buonanotte. Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Beh, magari per tutti noi è un po' presto per andare a dormire, ci manca ancora qualche ora per chiudere questa giornata. Noi invece ci fermiamo qui. Ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Valeria Bernardi. L'appuntamento è rinnovato per domani alle 17:00.